Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, molti temi oggi di diversa natura. Da un lato l'obbligo per la Fininvest di cedere almeno il 21% della sua partecipazione in Mediolanum. Avremo nostro ospite il presidente, mister delegato di Mediolanum, Ennio Doris. Questo perché la quota che è in capo a Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi dopo la condanna, come hanno spiegato anche i nostri GR, non ha più quelle garanzie di onorabilità che la legge, il testo unico, prevedono per chi gestisce a quote rilevanti di rilievo nella gestione del risparmio degli italiani. Ne parleremo più avanti, non abbiate timore, però intanto vediamo che cosa è successo in borsa dopo questa notizia. Il titolo perde il 2,81%, ne parleremo a mercati chiusi. Poi abbiamo annunciato, e oggi lo avremo con noi, Thomas Piketty, in realtà l'autore del caso editoriale più importante negli Stati Uniti. Il libro si chiama Il Capitale nel XXI secolo, presentato in pompa magna in questi giorni anche in Italia. Caso editoriale, dicevamo, il libro più letto da Barack Obama, dai capi di Stato. Lo abbiamo intervistato qualche ora fa, chiaramente, perché ci vuole anche il tempo per fare la traduzione. E devo dire che da questo punto di vista il tema riguarda sia il suo libro, cioè che cosa crea o non crea le disuguaglianze. Piketty ha analizzato sostanzialmente tre secoli di dati per cercare di capire quali fossero le matrici dell'aumento delle disuguaglianze o della riduzione delle disuguaglianze, come per esempio avvenne tra il 1946 e la metà degli anni 70, in cui diminuì notevolmente nei paesi occidentali la disuguaglianza sociale. Ma con lui abbiamo parlato anche dell'attuale situazione europea, essendo Piketty un professore di economia che insegna in Francia, è francese, e quindi che cosa pensa della posizione francese e italiana nei confronti della posizione tedesca. Pochi istanti fa, a questo proposito, il Fondo Monetario Internazionale, o meglio il responsabile del Dipartimento Europeo, Paul Thompson, ha detto: attenzione, i paesi dell'Unione Europea dove gli obiettivi di bilancio, cioè il 3% famoso, non sono stati centrati a causa di una minor crescita e quindi della condizione economica esterna, non dovrebbero compensare con nuove misure. Ossia, tradotto, se tu sfori il tetto del 3% perché non sai tagliare, perché sprechi, perché spendi troppo e male, devi compensare. Ma se tu non arrivi al 3% del deficit PIL perché il tuo PIL è crollato, il denominatore è crollato, e perché l'economia si è fermata a livello europeo, si è fermata anche fuori dall'Europa, c'è un rallentamento in corso, non è, diciamo, colpa tua, beh, non devi correggere nulla, altrimenti rischi, aggiungo io, di entrare in quelle spirali recessive in cui ci siamo infilati, perché se tu vai a correggere un deficit in proporzione al PIL troppo alto, ma solo perché il PIL non è cresciuto, perché c'è un rallentamento dell'economia, come fai a correggere? Tagli e aumenti le tasse, con la conseguenza che i consumi, come stiamo vedendo da questi anni, cresceranno sempre meno, o meglio, caleranno sempre più. Parleremo di questo e parleremo quindi di Mediolanum, del libro di Piketty, Il Capitale, e anche in apertura di quello che oggi bene illustra il Sole 24 Ore e anticipa, oltre che illustrare, i tagli pronti, piani di riduzione di spese per i vari ministeri in vista della definizione della legge di stabilità, come si chiama adesso, la legge finanziaria. E le sforbiciate più consistenti riguardano l'istruzione, meno 840 milioni, e il lavoro, meno 600 milioni. Alcuni tagli sono oggettivamente, potrebbero essere indolori, penso al fatto che non vi saranno più i membri esterni nelle commissioni per la maturità, si risparmiano 150 milioni, o la razionalizzazione delle spese di pulizia sono 130 milioni, e anche una stretta sui consumi intermedi per l'università, 32 milioni. E poi la difesa, mezzo miliardo di tagli, Le risorse però arriveranno dalla vendita di 1200 alloggi sinora assegnati ai militari e altri ministeri. Li analizzeremo uno per uno tra pochi minuti. Non mi resta che dare il numero per gli sms 349-238-6666 e ricordare che c'è anche la pagina di Facebook, o meglio di Focus Economia, su Facebook e non di Facebook su Focus Economia. Partiamo dalla borsa, già accennavo Mediolanum, in realtà il peggior titolo oggi è ST Micro Electronics, meno 5,60, poi World Duty Free meno 3,20 e appunto Mediolanum che perde il 3, Tods perde il 2,80 come Prismian, Saipem il 2,60, Autogrill il 2,5, Ferragamo il 2,30, CNH il 2% come Pirelli. Banco Popolare più 2,70, Finmeccanica più 1,70, Azimut più 1,50, Moncler più 1,50, Campari più 1,20, Mediaset più 1%, Pop Emilia Romagna più 0,80 come Iux. Altre notizie come sempre di carattere internazionale, ancora molte reazioni alle frasi di Draghi di ieri al Brookings Institute a Washington. Gli elettori devono mandare a casa i governi che non sono riusciti ad agire contro la disoccupazione. È stato un intervento tutto incentrato sulla disoccupazione. C'è chi ha detto: beh, Draghi fa così perché siccome sente le resistenze della politica e anche di quella tedesca al ruolo della BCE, vuole mettere boccino nel campo della politica e dire: beh, attenzione, io sto facendo quello che riesco. C'è chi dice troppo poco, c'è chi dice troppo, però insomma, adesso prendetevi voi le vostre responsabilità. E ha continuato: la riforma del mercato del lavoro deve rendere più facile per le aziende assumere giovani, ma non più facile licenziarli. Non credo che la riforma del lavoro in Italia si tradurrà in massicci licenziamenti. Intanto applauso per il Jobs Act del governo anche dal Fondo Monetario Internazionale. Oggi il Tesoro italiano, qui veniamo all'Italia, ha fatto il pieno nell'asta di bot a un anno, 8 miliardi di bot collocati, ottima la domanda nel senso che era in crescita il rapporto di copertura, come si chiama, cioè il rapporto della domanda e offerta di 1,7 volte rispetto all'offerta, però è cresciuto leggermente il rendimento dello 0,27 che era comunque il minimo storico nel rendimento dei bot a un anno. In effetti lo 0,27% lordo è veramente veramente poco, allo 0,30% di oggi, che non è che sia tanto di più, Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, la nuova direttrice Raffaella Orlandi, oggi ha ricordato che serve un nuovo patto di fiducia tra imprese, consulenti e il fisco. Occorre il coraggio di combinare, passando da una normativa sui controlli ad una sullo sviluppo e la concorrenza che superi le norme anti-evasione per principio. Ma al di là di queste dichiarazioni molto così di pragmatiche, di intenti, oggi faccio notare che la produzione industriale italiana è, a differenza di quella tedesca, ad agosto è salita 0,3% rispetto a luglio, su base annua siamo sempre un meno 0,7%, però arriva il Centro Studi Confindustria a gelare ogni eventuale ottimismo, perché la stima del Centro Studi Confindustria vede una produzione industriale con un calo dello 0,2% a settembre, dello 0,6% sul trimestre precedente. La vicenda ThyssenKrupp, o meglio la vicenda Acciaierie Speciali di Terni, la Commissione Europea monitora da vicino il rispetto dei livelli produttivi del piano industriale proposto da ThyssenKrupp prima dell'estate. Lo ha annunciato il commissario alla concorrenza Gioacchino Almunia. Il ministro Guidi ha detto: siamo molto preoccupati, la situazione non è semplice, il governo continua a sostenere la trattativa. Ma come spiegavamo ieri, bisognerebbe avere la forza e il coraggio forse anche di andare a Bruxelles e chiedere un intervento speciale proprio in materia di antitrust. Terni è un eccellente impianto di avanguardia a livello mondiale nei laminati piani speciali. È assurdo che per normative dell'antitrust europeo che risalgono agli anni 60-70 noi andiamo a smembrare, quando fuori dall'Europa, lo ricordavamo ieri ma voglio ridirlo anche oggi, si stanno creando colossi mondiali. Rio Tinto, ArcelorMittal, due nomi su tutti, no? E lì l'antitrust non sanno neanche cos'è. Allora, c'è un dato un po' singolare che riguarda, che è stato lanciato dalla Società Italiana di Pediatria. Io però prendo sempre con le pinze questi dati, perché se si vuole dire che nelle regioni del sud la mortalità infantile è più alta del 30% come effetto della crisi, io starei molto molto attento. Può essere che, ahimè, la mortalità infantile di un 30% superiore al sud rispetto al nord sia dovuta anche a una peggiore assistenza e peggior funzionamento della struttura sanitaria. Invito tutti ad avere calma, perché vedevo già molte reazioni su questo. Prima di dire che questo è l'effetto della crisi, che morde più al sud che al nord, andate cauti, perché il cortocircuito da luogo comune e da bar dello sport è dietro l'angolo. Babbo, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Primo tema di oggi, iniziano, e le ha avute oggi per prima il Sole 24 Ore, ad arrivare le indiscrezioni su dove e come si collocheranno i tagli dei vari ministeri, ossia il risparmio complessivo di almeno 3 miliardi di euro previsto dalla Spending Review. No, sto leggendo alcuni sms come sempre inizio programma. Va bene, senta, è venerdì, c'era la pioggia e il rischio maltempo non solo in Liguria. No, lo dico a chi mi dice, a chi mi scrive: quando verrà il tempo che saranno licenziati leccapiedi come lei, cioè come me, e non la gente piena di guai? Non lo so, chieda al Sole 24 Ore. Io sono licenziabilissimo, perché non ho nemmeno più il contratto, diciamo, da giornalista, per cui mi possono licenziare quando vogliono. Glielo chieda, faccia una petizione, che devo fare? Faccio un gruppo su Facebook, visto che ha buon tempo, come dicono in Veneto. Allora, arrivano i tagli della legge dei ministeri. Se ho ben capito, su una manovra che vale 23-24 miliardi, i tagli ai ministeri, l'obiettivo minimo è di 3 miliardi. Quindi è più vicino all'ipotesi di Cottarelli che a quella di Renzi. I 3 miliardi però diventano 6 in termini di impatto di saldo da finanziare. Dicevo che l'anticipazione ce l'ha oggi sulle 24 ore. Uno dei due autori è Marco Rogari. Buonasera, Marco. Buonasera a tutti. Allora, in attesa che io venga licenziato, dimmi un po', le sforbiciate più importanti riguardano il Ministero dell'Istruzione, del Lavoro, poi se ho ben capito, la difesa. Prima di cadere però nel dire ecco si va a tagliare sempre la scuola, cerchiamo di capire che cosa si va a tagliare nell'istruzione. Marco, anzitutto va detto che queste ancora sono le proposte che sono arrivate. Hai ragione, le proposte. E poi la scelta definitiva spetterà a Renzi insieme al ministro Padoan, e sarà questa scelta fatta tra lunedì e mercoledì, perché mercoledì sarà varata la legge di stabilità, che come hai detto tu avrà una portata di 23-24 miliardi per quello che se ne sa fino a questo momento. L'istruzione si incide soprattutto su alcune voci come le spese per pulizie, ma soprattutto viene ripristinato, secondo la proposta che è arrivata al Ministero del Ministro Giovannini, il blocco degli scatti per gli insegnanti per il 2015. È anche prevista tra le misure la riconfigurazione delle commissioni d'esame di maturità con commissari esclusivamente interni, tranne il Presidente, che resterebbe esterno. Quindi ci sono tutta una serie di micro interventi, diciamo così, che portano ad arrivare a questo obiettivo di un quarto dei 3 miliardi fissati dal piano complessivo a carico della pubblica istruzione. E questo per quello che riguarda la pubblica istruzione, appunto tu citavi già, è vero che sono 840 milioni, però 144 l'addio ai membri esterni nelle commissioni per la maturità. Devo dire che chi ha fatto la maturità, insomma, penso che insomma non è col membro esterno che andiamo a migliorare la maturità. Se gli insegnanti sono bravi, cioè ci può stare, non vedo un crollo della qualità perché manca il membro esterno. La razionalizzazione della spesa pubblica 130 milioni e una stretta sui appunto i consumi intermedi per l'università 32 milioni e entri circa 50 milioni. Scusami Marco, però è vero che sono proposte. Io così, calcolando a spanne quanto voi avete individuato, arrivo a 350, 340, 380 milioni, ma l'altro mezzo miliardo? No, ci sono altre misure, nel senso l'elenco è molto lungo, quello dell'istruzione è un elenco lunghissimo, è uno dei più lunghi, naturalmente noi siamo riusciti a verificare, perché questo è il nostro lavoro, una parte di questi interventi, e quelli su cui non abbiamo potuto fare una verifica piena non li abbiamo citati, questo è il nostro lavoro, insomma, però l'elenco, per quello che sappiamo noi, è molto molto più lungo ed è un elenco di una serie di interventi, no, più di 20 interventi mi sembra, che portava a quella cifra che è indicata. E quindi diciamo le altre voci. Allora, per quello che riguarda invece il Ministero del Lavoro, ho capito bene, ma ci sarà una modifica dei requisiti d'accesso agli assegni sociali? Ma questo è da capire, nel senso che genericamente è indicato un intervento sugli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello e il cambio dei requisiti, come dicevi tu, per gli assegni sociali. In che modo? Questo bisognerà attendere le norme, perché diciamo l'elenco era un elenco proprio di misure secche e su questo ancora non ti so dire con esattezza adesso come potrà accadere. Quello che possiamo dire è che dal Ministero del Lavoro sono arrivate indicazioni, citavo quella degli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello, ma potrei citare anche quello sulle pensioni per i lavori usuranti, che facevano parte di una disciplina apposita rispetto alle regole previdenziali a cui tutti siamo sottoposti, che insomma, voglio dire, individuano delle scelte magari non proprio mirate, però comunque con un minimo di coraggio, perché non sempre i ministeri dal quadro che abbiamo noi esposto hanno mostrato il coraggio che forse il coraggio dei Manzoni hanno avuto in molti casi. Allora andiamo avanti, la difesa, tagli per mezzo miliardo, 510 milioni, però se ho ben capito qui molto arriverà dalla vendita dei 1200 alloggi sinora assegnati ai militari, ho capito bene Marco? 100 milioni dovrebbe arrivare da questa voce che tu hai indicato, poi naturalmente si usa, passami il termine, lo strumento della leva, cioè il personale come l'accesso al servizio, che già l'aveva anticipato questo il Ministro della Difesa Pinotti, e poi ci sono anche interventi sulle forniture. Ora non è specificato se le forniture militari equivale a dire un nuovo intervento sugli F-35 ad esempio o no, certo. E anche per questo bisognerà attendere le norme che saranno inserire nella legge di stabilità, però insomma è previsto anche una stretta sugli approvvigionamenti militari veri e propri. Ancora 200 milioni in meno al Ministero dell'Interno, 100 milioni in meno alla giustizia, 170 allo sviluppo economico, 70 milioni in meno alle politiche agricole. Dunque, ho ben capito, ma i tagli alla sanità sono stati ridotti a 35 milioni? Ho letto, perché non è che devo capire. Hai capito? No, sì, hai letto benissimo, questo è quello che è indicato nel piano che è stato presentato al Ministero. C'è anche da dire che però, come tutti sappiamo, la partita vera sulla sanità è con le regioni, perché la spesa sanitaria è essenzialmente spesa regionale, c'è il patto per la salute, il fondo sanitario che appunto raccoglie la spesa delle regioni, quindi questo non vuol dire che con la prossima legge di stabilità ci saranno solo 35 milioni di risparmi dalla sanità. Bisogna vedere come evolve questo braccio di ferro nelle prossime ore, perché dai tecnici del Ministero dell'Economia c'è l'idea di spuntare almeno come minimo dai 600 ai 900 milioni. Ora bisogna vedere se questo si realizzerà e bisogna vedere magari se l'asticella verrà posizionata un pochino più in alto. Sì, è chiaro, però insomma già sarebbe che tu ricordavi che poi c'è tutto il fronte regionale sulla sanità, quindi attenzione a confondere quella che è la manovra nazionale con il fronte regionale. Ancora il Ministero del Lavoro procederà a una modifica dei requisiti di accesso agli assegni sociali e interverrà su decontribuzioni e dote per gli anticipi delle pensioni agli usuranti. Attenzione, questo è un pacchetto. Marco, scusami, cosa vuol dire che... In questo confesso la mia ignoranza, vedo che alcuni me la stanno ricordando in maniera molto assidua in questi minuti. Cosa vuol dire che i 3 miliardi diventano 6 in termini di impatto di saldo da finanziare? Allora, il parametro che viene preso in sede europea di riferimento è quello del deficit, l'impatto del deficit, l'indebitamento netto da PIL non è altro che il deficit. Quindi ai fini del deficit si fa una manovra da 23-24 miliardi che ci consente di rimanere sotto il 3%. Non tutte le voci, cerco di semplificare il più possibile, vengono, come posso dire, catalogate a livello europeo, quindi le voci di taglio, per cui il taglio della spesa corrente di competenza dei singoli ministeri, che viene utilizzata poi per le singole coperture delle misure che verranno adottate, è sostanzialmente incide sul saldo netto di finanziare, cioè diciamo sono due parametri che sfasano semplicemente perché la manovra ha come riferimento principale i parametri europei e uno di questi è quello che tutti ormai okay. Conosciamo. Quindi 3 miliardi diventano poi 6 in termini di impatto di saldo nella manovra da finanziare. Grazie a Marco Rogali del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Allora, il viceministro dell'economia Enrico Morando, intervistato dal nostro Maurizio Melis per il programma di Radio 24 Smart Cities, dice: attenzione, è previsto dalla legge di stabilità il superamento graduale del patto di stabilità interno. In realtà l'aveva già annunciato il ministro Padoan nella conferenza stampa di presentazione del DEF, e cioè il patto di stabilità interno è un patto di stabilità ancora più stupido di quello europeo, perché impedisce ai comuni virtuosi che hanno soldi da parte di fare investimenti negli asili, in altre attività, e sostanzialmente li tratta come i comuni non virtuosi, quelli che invece hanno debiti, che giustamente prima devono sistemare le casse e poi fare gli investimenti. Così anche i cittadini capiscono quale sindaco e amministrazione è brava e quale sindaco e amministrazione va cacciata e rispedita a casa nelle prossime elezioni. Se tu blocchi tutti, cioè blocchi quelli che hanno il debito ma anche quelli che hanno i soldi in cassa, non si capisce più niente, oltre che essere sbagliato sul profilo dell'economia. Ecco, Morando sostiene che si potrà sbloccare, e quindi i comuni che hanno già i soldi pronti, per un totale di 1,5 miliardi, 2,5 miliardi, il patto di stabilità interno. Se io passo dall'attuale patto di stabilità interno a una regola come quella del pareggio di bilancio, io ho tutti i comuni che sono in condizioni positive che mi accrescono la spesa, mentre i comuni che stanno nell'immediato in condizioni negative non raggiungono il pareggio di bilancio e ho bisogno di metterci dei soldi. Risultato: sforo l'obiettivo europeo come pubblica amministrazione italiana nel suo complesso. È per questa ragione che nella fase di transizione, cioè 2015, lo Stato centrale deve metterci delle risorse se vuole davvero realizzare il passaggio. Quindi la risposta alla sua domanda è sì. Naturalmente nel primo anno bisognerà che ci siano regole che impediscono un improvviso innalzamento della spesa fino a tutta la capienza finanziaria possibile per la metà dei comuni italiani, perché la metà possono spendere di più e alcuni molto di più, perché non ho il modo se non faccio una norma speciale non ho il modo di compensare la parte che mi sta sotto, che invece non spende, ma mi vanno tutti fuori dalla regola del pareggio di bilancio. Non posso commissariare un comune su due. Il meccanismo è studiato, l'intensità dell'apertura di spazio finanziario dipende da quanti soldi siamo in grado di metterci. È 1,5 miliardi o è 2 miliardi o è 2,5 miliardi? Così il vice ministro Morando. Allora, adesso ci avviamo al meteo, alla pubblicità. La borsa ha appena chiuso con uno 0,94% di calo. E Mediolanum, avremo ospite Punta Agnodoris, meno 3%. Oddio, c'è un altro ascoltatore. No, non è che non devi essere licenziato perché sei leccapiedi, ma perché sei un incompetente demagogo. Ti è chiaro il concetto? Sì, fin lì ci arrivo anch'io. Tu, Milan e Cruciani, sareste disoccupati a vita senza Radio 24. Ho capito, mamma mia, le piace proprio sta radio, che mercoledì festeggia i 15 anni. Senta, ma che l'abbiamo fatto? Che le ho fatto personalmente di male? Ho parlato forse degli sprechi, degli stipendi nella pubblica amministrazione, negli enti locali, dell'evasione fiscale, delle categorie protette, delle varie caste, delle mancate liberalizzazioni. Non so, mi dica quale di questi gruppi lei sente di poter, quantomeno come affinità elettiva, richiamarsi. Mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con certo. Intanto calma. Dicevamo, mentre attendo risposta dall'ascoltatore, in quale di queste categorie si identifichi, dicevamo c'è un altro che mi scrive: Berisoni, lei ha la salivazione difficile oggi. Sì, guardi, si figuri il resto. Lasci sta la salivazione, comunque la mentina adesso la prendiamo. Dicevo, ST Microelectronics meno 5,50, World Duty Free meno 3,20, Prismian meno 3,20, Tods meno 3,15, Mediolanum meno 3%, euro a quota 1,26,31. E tra i titoli migliori invece il Banco Popolare più 2,40, Finmeccanica più 1,70, Moncler più 1,40, Campari più 1 come Mediaset e Azimut. Allora, 17:42 minuti, adesso arriviamo al commento di borsa. Prima di tutto però dicevo la vicenda Mediolanum. Che cosa è successo? È successo che Fininvest, che attualmente ha il 31% di Mediolanum, dovrà scendere sotto al 10%. Lo ha annunciato la stessa Fininvest oggi, quindi la holding della famiglia Berlusconi, a seguito dell'iscrizione di Mediolanum nell'albo dei gruppi bancari. Cosa succede a quel punto? In questo caso, visto che Silvio Berlusconi ha perso i requisiti di onorabilità in capo al controllante, appunto, previsti dalla legge, occorre che Berlusconi ceda la sua quota dal 31 sotto il 10%. Lo ha disposto la stessa Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS, che è l'ex ISVAP, l'ex autorità di vigilanza sulle assicurazioni. Perché questo? Perché il testo unico bancario prevede che la partecipazione al capitale dei soggetti abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento, cioè chi fa attività di investimento, richiede il possesso dei requisiti di onorabilità. Questo significa che chi, attraverso il voto in assemblea per la quota che ha, può influire sulla gestione sociale di chi appunto ha un servizio di investimento come fa Mediolanum, deve risultare affidabile e non aver subito condanne penali. Ora, ovviamente Berlusconi ha avuto la condanna nel processo per frode fiscale sui diritti TV Mediaset e quindi la Banca d'Italia è intervenuta e ha detto: bene, devi ridurre la tua quota dal 31 a sotto il 10%. Siamo in collegamento con chi Mediolanum, il gruppo Mediolanum l'ha fondato e attualmente è amministratore legato di Mediolanum come titolo quotato e presidente di Banca Mediolanum. Ennio Doris, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque, è una tegola in primo luogo per voi? Cioè arrivare avere un socio che è obbligato, nel senso che a me dispiace molto che sia successo questo al mio partner e ha tutta la mia solidarietà naturalmente. Per altri aspetti invece non cambia nulla, perché prima c'era il patto di sindacato fra la mia famiglia e il gruppo Fininvest, e questo patto prevedeva che io fossi il gestore, diciamo, dell'azienda, dell'impresa, e questo è stato così sin dall'82, da quando è nata. Adesso si scioglie questo patto e io continuerò a gestire l'azienda esattamente come ho fatto prima. Questo per un aspetto. Per l'aspetto del controllo della società, prima c'era il patto di sindacato che era fatto col 51% delle azioni, adesso essendosi sciolto questo patto c'è la famiglia Doris che complessivamente controlla più del 40% delle azioni e quindi un controllo molto solido, quindi da questo punto di vista non c'è niente, insomma, che cambi davvero. Ecco, mi faccia capire una cosa. È chiaro che, insomma, nessuno può fa piacere all'improvviso vedere un socio che dal 31 deve passare sotto al 10. Sì. Però voi siete uno dei principali gruppi italiani nel risparmio gestito, e quindi la clausola del testo unico per i soggetti abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento vi riguarda in pieno. Ricordo che voi amministrate un patrimonio di circa 58 miliardi di euro e avete circa 1 milione di clienti. Tra l'altro, per precisione, visto che questo è un programma di economia e finanza, avete chiuso 2013 con utili per 337 milioni di euro. Dicevo, adesso Fininvest metterà almeno il 21%, se ho ben capito, sul mercato. Quanta parte potrebbe comprarne lei, Doris? Perché poi c'è anche la soglia dell'OPA. Sì, allora, primo la metterà sul mercato a meno che non trovi la via per tenere questa partecipazione all'interno della famiglia Berlusconi, perché il problema riguarda il dottor Silvio Berlusconi, non gli altri componenti della famiglia. Ammesso quindi che questa quota di circa il 21% finisca sul mercato, è evidente che si creerà una fila di pretendenti. In quella fila ci sarei anch'io, naturalmente. Questo non perché abbia bisogno di arrotondare il 40% della mia famiglia per avere il controllo dell'azienda, ma solo per, come si dice, un fatto di affetto. Difficilmente io resisterei ad acquistare qualcosa se questo andasse sul mercato. Ma siccome il fatto che il gruppo sia quotato io lo ritengo molto importante, perché visto che noi siamo un gruppo bancario che è sottoposto naturalmente al controllo di Banca d'Italia, della Consob, dell'IVAS, ma se è quotato anche del mercato, anche degli investitori istituzionali e così via, io ritengo che questo sia una cosa che dà ancora maggior fiducia ai risparmiatori, per cui eviterei con i miei acquisti di causare l'OPA e quindi il delisting del titolo. Siccome abbiamo il 40% abbondante, l'OPA credo scatterebbe se si supera il 50,1%. Però certamente non arriverei con i miei acquisti al 49,9, perché sarebbe come una presa in giro dal mio punto di vista del risparmiatore, che mi ferma al 49,9 e non aggiungo quello 0,1 per evitare l'OPA. Quindi arrotonderei di un 3-4-5% la mia partecipazione alla mia famiglia, arrivando dal 40 al 44, 45, 46, ecco, là mi fermerei sicuramente. Ecco, però lei, mi sembra di capire, lei ha la sensazione, insomma, pensa che in realtà la famiglia Berlusconi, visto che appunto riguarda solo Silvio Berlusconi, terrà la quota in famiglia? E io devo dire che da un lato ci spero, dall'altro è un consiglio che do pubblicamente alla famiglia, siccome la partecipazione in questa impresa finora ha dato soddisfazioni a loro e le prospettive future sono molto molto buone, io al posto loro farei di tutto per tenerla in famiglia. E io spero che facciano questo, naturalmente, però è una decisione che spetta alla fine. Che sì, però lei conosce Berlusconi da 30 anni, 40 anni, sì. Adesso vado a memoria, insomma, avrà avuto la sensazione, è questa, diciamo, la strada verso cui si orienta la famiglia? Io penso di sì, per quanto lo conosco, però un conto è quello che penso io, un conto poi quello che matureranno loro. Ma se io dovessi fare una scommessa, farei una scommessa nella direzione che loro terranno all'interno della famiglia, tutta questa partecipazione. Grazie all'amministratore delegato di Mediolanum e presidente di Banca Mediolanum, nonché fondatore di Mediolanum stessa, Ennio Doris. Grazie a lei, un saluto a tutti gli ascoltatori. Minuti, così appunto, insomma, mi sembra abbastanza chiaro quello che ha detto Ennio Doris, no? Lui consiglia vivamente alla famiglia, perché l'accusa è su Silvio Berlusconi, cioè lui potrebbe chiaramente cedere la quota a altri membri della famiglia. L'onorabilità, in questo caso, vista la condanna, è, diciamo, nominale e quindi è riferita alla persona di Silvio Berlusconi. E mi sembra chiaro l'invito di Doris, così come quello che intenderà fare se invece Berlusconi decidesse di cedere il 21% almeno di Mediolanum sul mercato. -0.94% Milano oggi. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 per Pichetti. Abbiate pazienza, adesso l'intervista la facciamo ascoltare dalle 18.05 in poi. Il libro si chiama Il Capitale nel XXI secolo, casa editrice Bompiani. -0.94% al di là di Mediolanum, di cui abbiamo ampiamente parlato con Ennio Doris, parliamo degli altri titoli. Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. ST Microelectronics, -5.5%, vado rapido perché ho 4 minuti scarsi. Cioè Velocemente, l'americana Microchip nella scorsa notte ha annunciato un calo superiore alle attese dei ricavi, e quindi questo ha influenzato tutto il settore tecnologico mondiale. Difatti oggi anche in Europa altri titoli sono caduti, soprattutto sul mercato tedesco, con Infineon che ha perso oltre il 5%, quindi anche ST, che fa lo stesso mestiere, ha pagato dazio. E questo per ST Microelectronics. Finmeccanica invece, andiamo anche sui titoli che guadagnano oggi: +1.76, Banco Popolare +2.41, Moncler +1.40, Campari +1, Mediaset +1, come Azimut. Allora, Finmeccanica da un lato, e dall'altro, però, così ti faccio fare un unico commento, anche Tod's e Ferragamo. Beh, qui si pagano le rinnovate tensioni a Hong Kong. Come sappiamo, questi due titoli della moda sono molto esposti sull'isola, chiaramente realizzano all'incirca tra l'8 e il 10% del fatturato annuo a Hong Kong. Chiaramente il risalire delle tensioni potrebbe influenzare negativamente il business, e dall'inizio dei disordini di Hong Kong che sia Ferragamo sia Tod's stanno pagando pesantemente dazio in borsa. Ancora World Duty Free, un'altra giornata pesante, brutta settimana, -3.30% alla fine. Sì, da venerdì scorso, quando sono emerse. Nella conference call è emerso il forte rincaro degli affitti negli aeroporti spagnoli, il titolo ha perso il 24%, che dice tutto. Sì, pesante, e saliranno comunque gli affitti negli aeroporti spagnoli, tu lo ricordavi. Allora, nell'ultimo minuto vi do anche altre. Le banche oggi benino, no? Cioè, o non. Sì, un po' in altalena. Dopo l'apertura di Wall Street, Milano aveva addirittura girato in positivo, c'erano in prima fila tutte le banche, poi Milano ha chiuso praticamente a -1%, è rimasta avanti solo il Banco Popolare e la Biper, sostanzialmente. Il resto lo do, sì, appunto Bibanca +0.50, Intesa -0.20, cali abbastanza contenuti, Unicredit -0.60%, eccola qui la sigla che ci segnala, CEO, che stiamo per chiudere. Allora, migliori e peggiori, IWS Group più 6,25, Industria e Innovazione più 5,60, Piaggio più 5, Moleskine più 4,70, peggiori, Poligrafici Editoriali meno 11,80, Mondriff meno 11,16. Buon fine settimana a te, Ceo, e a tutti i colleghi di Radio Corri sulle 24 ore. Sì, volete sapere di Seat, pagine gialle, Mondadori, Mondadori male, anche Mondadori meno 6,60, CSM Agam meno 6,33%, euro, ce la faccio, sì, a 1,26,35, GR24 e poi l'intervista con Thomas Piketty, l'autore del libro che ha sconvolto l'America, Il Capitale nel XXI secolo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, parliamo di disuguaglianze e soprattutto ne abbiamo parlato con Thomas Piketty, che per chi non lo conoscesse è autore di un libro, Il Capitale nel XXI secolo, è uscito in Italia in questi giorni, casa editrice Bompiani. È stato il caso editoriale, lui insegna all'École des Hautes Études di Scienze Sociali e all'École d'Economie di Parigi, però lui è stato un caso editoriale soprattutto negli Stati Uniti. Barack Obama l'ha definito il libro più importante che ha letto negli ultimi anni. Di cosa si occupa? Delle strutture che determinano l'aumento o la riduzione della disuguaglianza. È andato ad analizzare, il libro è un libro di 900 pagine, dati dal XVII-XVIII secolo in poi. Due cifre prima di ascoltare l'intervista. Allora, è chiaro che le disuguaglianze restano più marcate nell'economia in via di sviluppo. Mi riferisco al rapporto Fiscal Policy and Income Inequality del Fondo Monetario, pubblicato a marzo del 2014. Però attenzione, nell'economia in via di sviluppo, negli ultimi 30 anni la fetta di reddito in mano all'1% più ricco della popolazione è cresciuta in modo significativo, Cina e India comprese. Però se guardiamo anche le economie già sviluppate, le cose non vanno molto meglio. Negli Stati Uniti la quota di reddito in mano al 10% più ricco è salita dal 30% del reddito totale negli anni 80 al 48% nel 2012. La fetta detenuta di reddito detenuta dall'1% più ricco è aumentata dall'8% del totale che era negli anni 80 al 19%, cioè più che raddoppiata. E già più volte abbiamo ricordato come ormai il rapporto tra manager e dipendente sia passato dal rapporto di 1 a 74 come stipendio a 1,240. Prima dello scoppio della crisi, nelle catene di fast food americane si ha un rapporto di 720 volte lo stipendio del top manager rispetto allo stipendio del dipendente medio. Ma anche in Italia, dati Censis del maggio 2014, i 10 uomini più ricchi dispongono di un patrimonio di circa 75 miliardi di euro, che vuol dire che i 10 uomini più ricchi hanno un patrimonio che è quello pari a quello di 500.000 famiglie e di operai italiani messi assieme. Poco meno di 2.000 italiani molto ricchi dispongono di un patrimonio complessivo superiore ai 170 miliardi. È interessante notare come è cambiata anche la distribuzione del rapporto tra top manager e dipendenti. Un dirigente 20 anni fa aveva un patrimonio pari a 3 volte quello di un operaio, adesso è quasi 6 volte. Un libero professionista 20 anni fa aveva un patrimonio pari a 4 volte quello di un operaio, adesso è a 4,5. L'imprenditore è rimasto invariato, cioè era di 3 volte 20 anni fa ed è rimasto il patrimonio di 3 volte quello di un operaio. Da qui si capisce che chi ha avuto in questi 20 anni un grosso beneficio sono stati soprattutto i dirigenti e i manager e un po' anche i liberi professionisti. Allora, la prima cosa che abbiamo chiesto a Piketty è quali siano gli elementi, le variabili determinanti l'aumento oppure la riduzione nei processi di disuguaglianza, avendo lui studiato appunto una mole di dati enorme dal XVIII secolo in poi. This is primarily a book about the history of income and wealth distribution over 20 countries across 3 centuries. So, il mio libro è essenzialmente concentrato sull'analisi della distribuzione dei salari e della ricchezza. Sono 20 i paesi presi in esame nell'arco di 3 secoli e sono diversi i meccanismi che ho osservato. Con il libro credo che le persone possano farsi un'idea propria sul tema. Voglio sottolineare che non c'è una sola conclusione possibile e un solo meccanismo che ha determinato il processo descritto nel libro. Credo che la forza maggiore che determini una riduzione della diseguaglianza sia la diffusione della cultura e della conoscenza. Questo credo sia l'elemento più importante che possa portare a una riduzione della disuguaglianza sia tra i diversi paesi, come si vede con i paesi emergenti che nel settore dell'educazione tengono il passo con i paesi più ricchi, sia all'interno dello stesso paese. In questo caso è necessario un processo di inclusione delle persone e investimenti che favoriscano l'accesso a scuole e università di alto livello. Ma questa è una situazione che ora non abbiamo in Europa. A causa dell'austerità, gli investimenti nella scuola sono insufficienti. A parte la scuola, ci sono altri meccanismi coinvolti nell'evoluzione a lungo termine della disuguaglianza. In primo luogo, il protrarsi per molto tempo di livelli diversi di ricchezza nasce quando la rendita da capitale è più alta del tasso di crescita dell'economia. Questo è un elemento che in Europa è stato dimenticato dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché la crescita era sostenuta negli anni 50, 60 e 70. C'erano tassi di crescita del 5% e anche oltre. Ora invece siamo tornati a tassi dell'1-2% l'anno, ma anche vicino allo 0% in certi casi. Ma anche se fossimo nella situazione di crescita al 2%, la rendita da capitale sarebbe comunque superiore al progresso dell'economia. Questo è quanto è successo in molti paesi fino alla Prima Guerra Mondiale. Poi, a causa degli shock geopolitici e delle politiche adottate dopo la Grande Guerra, la Depressione e la Seconda Guerra Mondiale, il fenomeno si è ridotto. Ma ora siamo di nuovo in un contesto di bassa crescita e questo scenario può essere fonte di grande preoccupazione, in particolare per la classe media. This can be a serious concern, particularly for the middle class. Ecco, alcune di queste considerazioni che ha fatto Piketty possono sembrare ovvie, ma sono importanti perché frutto di un'elaborazione di dati. E quindi rendita, quando la rendita da capitale supera il tasso di crescita dell'economia e quando si bloccano i meccanismi di investimento nell'istruzione, le due leve principali, le due costanti principali nel corso dei secoli. Tornando al libro, però, Piketty sottolineava come c'è stato un tempo non molto lontano dal 45 al 75 in cui si ridusse in maniera significativa la disuguaglianza in Europa. E quindi in questo non solo in Italia, le persone che venivano istruite, i primi laureati in famiglia e quant'altro. Perché questo processo, gli abbiamo chiesto, si è poi interrotto e poi addirittura è tornato indietro, quindi con un riaumentare della disuguaglianza? Well, first of all, part of the reason for the decline in inequality during the first half of the 20th century. Innanzitutto, una delle ragioni della diminuzione della disuguaglianza nella prima parte del XX secolo si poggia su motivi tragici. Si era ridotta fortemente la disuguaglianza in termini di ricchezza in Europa, semplicemente perché molta della ricchezza non esisteva più a causa della distruzione, dell'inflazione e dei pochi investimenti tra il 1940 e il 1950. Per via della guerra. Quindi non c'era niente di positivo alla base della diminuzione della disuguaglianza. L'altro fattore, invece più positivo, è che fattori come la tassazione progressiva sono stati accettati dalle classi alte dopo la Prima e la Seconda Guerra Mondiale e hanno giocato un ruolo fondamentale nell'aumentare l'uguaglianza post-conflitto bellico. Infine il tasso di crescita stesso, perché era alto negli anni 50, 60 e 70 e ha fatto sì che le persone potessero accumulare ricchezza solo grazie al loro salario. Se guardiamo alla generazione degli anni 70, 80 o degli anni più recenti, sempre che abbiano un lavoro, i tassi di crescita dei loro stipendi è molto basso. Quindi per queste generazioni è possibile accumulare ricchezza solo se il loro salario è su alti livelli. E credo che per le generazioni più giovani questo scenario sia estremamente difficile. Altro punto che ci interessava capire alla luce di quanto ha detto Piketty è il tema di che cosa però ha scatenato questo riaumentare della disuguaglianza dagli anni, fine anni 70, anni 80 in poi. e abbiamo insistito, perché c'è chi dice è il frutto della Reagan Economics, della Thatcher, che diceva esiste solo l'individuo e non la società. Gli abbiamo chiesto, insomma, se dovessi individuare un colpevole, che cos'è? È l'ideologia, accumula la tua ricchezza, sei individuo, tra virgolette, fregantene della società, oppure l'eccesso di potere che la finanza ha avuto, e qui c'entra meno Reagan e la Thatcher, e più, se volete, Clinton, Glass-Steagall-Act, dagli anni 90 in poi. You know, I think it's a combination of forces. I think the return of what I call patrimonial capitalism. Penso che sia una combinazione di fattori. Credo che il ritorno di quello che nel libro chiamo capitalismo patrimoniale sarebbe avvenuto in ogni caso. Il periodo della ricostruzione dopo la guerra non poteva durare per sempre e ad un certo punto il tasso di crescita doveva per forza rallentare. La deregulation finanziaria, le politiche di Reagan e della Thatcher hanno certamente contribuito ad aumentare le distanze che già c'erano, ma le hanno allargate con la deregulation finanziaria in molti modi. Prima di tutto, la ragione principale della disuguaglianza nei salari risiede negli alti stipendi e bonus di chi opera nella finanza. In molti casi sono stati veramente eccessivi, nel senso che non hanno avuto alcun effetto utile per l'economia reale. La deregulation finanziaria ha anche contribuito ad aumentare la disuguaglianza nello stesso settore finanziario. Mi spiego. Se si dispone di un portafoglio molto ampio, allora si può investire in strumenti finanziari molto sofisticati e avere ritorni significativi. Al contrario, se il portafoglio è configurato sulla classe media, allora è chiaro che, soprattutto in questo periodo, è difficile realizzare performance importanti. Quindi direi che la disuguaglianza è aumentata a causa della deregulation finanziaria, aggravando le distanze. Because of financial deregulation and has therefore aggravated this tendency. Allora, di nuovo ultima parte di Focus Economia, di nuovo con l'intervista a Thomas Piketty, autore del libro Il Capitale nel XXI secolo. Abbiamo concluso la parte di ricostruzione con un'ultima domanda, cioè gli abbiamo chiesto, c'è chi dice sostanzialmente che negli anni 90, visto la deregulation a cui faceva riferimento sulla finanza, negli anni 90 si realizza un patto perverso tra la Casa Bianca e Wall Street, ossia per evitare che i cittadini americani delle fasce più basse abbiano la sensazione reale di aver perso il potere d'acquisto a vantaggio, diciamo, delle fasce più ricche, la finanza dice io sovvenziono, do mutui anche, mutui, prestiti finanziari, credito finanziario anche a chi non potrebbe permetterselo. In questo modo l'opinione pubblica sta tranquilla, la sintetizzo in maniera un po' brutale, ha la sensazione, la percezione di non avere perso il potere d'acquisto, di essere anche lei parte del sogno americano. Chi se ne frega se poi tu stai creando la più grande bolla del 29 con appunto i mutui subprime e tutto il resto e l'impacchettamento del rischio. In cambio la politica che ottiene questa cosa, in cambio cosa dà Wall Street? Dà la deregulation, appunto, cioè il non eccesso di controlli, la SEC invece della Fed, insomma il lasciar fare i titani della finanza di Wall Street. Gli abbiamo chiesto se era d'accordo con questa ricostruzione. I think it happened maybe more spontaneously than really as a plan, but at the end of the day I certainly agree. Sì, ma credo che sia avvenuto in modo spontaneo più che per un patto vero e proprio tra le parti. Ma certamente sono d'accordo che c'è stata una stagnazione nella classe medio-bassa negli Stati Uniti. Ed è vero che il sistema finanziario non ha fatto nulla per impedire che le famiglie si indebitassero. Il problema è stato che questo scenario non poteva continuare per sempre. Non si può avere un sistema in cui metà o due terzi della popolazione ha salari bloccati, mentre ad alti livelli gli stipendi salgono enormemente. Nel lungo termine occorre che ci sia una crescita bilanciata e con basi solide, altrimenti ci saranno altre crisi finanziarie. E poi i giorni nostri, e quindi abbiamo chiesto a Piketty che connessione se la vede tra i fattori che lui ha studiato che fanno aumentare o diminuire la disuguaglianza e la strada intrapresa dall'Europa negli ultimi 5 anni dall'area euro. C'è una relazione con l'austerità o no? Perché uno potrebbe anche dire che l'austerità è sbagliata perché è recessiva, però colpisce tutti, colpisce operai, quadri, dirigenti, top manager, e quindi è ininfluente nell'aumentare le disuguaglianze. Oppure l'austerità va a colpire soprattutto alcune fasce sociali? Well, rising unemployment is certainly not hitting the different social groups in an equal way. Dunque, l'aumento della disoccupazione certo non colpisce tutti allo stesso modo. È maggiore tra la popolazione che ha bassi livelli di istruzione o formazione e soprattutto colpisce i giovani. Attualmente in Europa circa il 25% dei giovani è disoccupato ed è un disastro per un'intera generazione. Questo potrebbe portare a un aumento della disuguaglianza, non solo nel breve, ma anche nel lungo termine. Perché se una larga quota di giovani non ha accesso al mondo del lavoro per molto tempo, ciò vuol dire che nel corso degli anni perdono competenze ed esperienza. Nel tempo questo può avere conseguenze e portare a disuguaglianze. Insomma, è un disastro. Dobbiamo anche ricordare che l'aumento della disuguaglianza, in particolare negli Stati Uniti, è stato in parte responsabile della crisi finanziaria. L'accentuarsi della disuguaglianza nei livelli di ricchezza ha contribuito alla stagnazione dei salari della classe media e bassa e quindi all'aumento dei debiti delle famiglie americane. In ultima istanza ha colpito la fragilità del sistema finanziario. Quello che è molto triste è che la crisi finanziaria inizialmente è partita dagli Stati Uniti, ma poi nel 2010 in Europa l'abbiamo trasformata nella crisi dei debiti pubblici, per ragioni che ritengo sbagliate. Abbiamo adottato politiche sbagliate. Il tasso di disoccupazione 4 anni fa era circa lo stesso degli Stati Uniti, e invece ora negli Stati Uniti è sceso, e in Europa è salito molto. Il debito pubblico in Europa non è sceso, perché quando si ha crescita zero e inflazione vicino allo zero, è impossibile ridurre il debito pubblico. Penso quindi che sia un vero disastro non solo a livello di disuguaglianza, ma anche a livello di fiducia verso i modelli europei. Credo che sia molto importante che Italia e Francia non si lamentino solamente della Germania, ma avanzino proposte concrete. Per esempio, credo sia molto importante avere il Parlamento dell'Eurozona in cui si voti il livello di deficit o il livello degli investimenti pubblici. Credo che l'Italia e la Francia debbano spingere per una forte unione politica e proporre soluzioni valide. In questo modo sarebbe difficile per la Germania rispondere sempre no e probabilmente temerebbe di essere messa in minoranza nelle decisioni sul deficit. Penso che l'attuale sistema europeo di negoziazione e scelta del livello di deficit non stia funzionando. È un disastro. Anche cambiando i nomi dei membri della Commissione, le cose non cambieranno. Il sistema che deriva dalla combinazione di regole rigide, dei criteri di Maastricht e di negoziazioni opache non è affatto buono. I livelli di deficit dovrebbero essere adottati in modo comune, discutendo nel Parlamento dell'Eurozona in modo democratico. E lo stesso si dovrebbe fare se si punta ad una maggiore giustizia nella tassazione per le imprese. Modifiche si possono avere solo se esiste una tassazione delle imprese unica in tutta la zona euro. Dobbiamo essere consapevoli che se non si apportano dei cambiamenti importanti, allora l'opinione pubblica si opporrà sempre più alla globalizzazione e all'Europa. Questa è una situazione molto seria. E quindi la posizione di Piketty su Francia e Italia è un po' più articolata, perché abbiamo chiesto anche di ribadirla. Cioè, lui sostiene che in realtà è quasi colpa della Francia e dell'Italia se la Germania ha la possibilità di dire sempre di no. E quindi se Francia e Germania avessero proposte forti per uscire dalla sola, diciamo, austerità e partire anche dalla crescita, la Germania avrebbe messo in un angolo e sarebbe quasi impossibile per la Germania dire di no. Esattamente, è quello che ho detto. Credo che finora sia stato facile per la Germania rispondere sempre no alle proposte italiane e francesi riguardo l'austerità, perché in realtà non c'è mai stata una vera e propria proposta. Non si è mai deciso su chi decide sul deficit, ma abbiamo bisogno di un meccanismo per stabilire un deficit comune. Non si possono avere decisioni singole su questo punto, ma abbiamo bisogno di un'istituzione democratica, di un Parlamento dell'Eurozona, di un sistema di negoziazione tra i governi nazionali e la Commissione. Il sistema attuale semplicemente non funziona. Francia e Italia devono proporre un altro sistema, altrimenti non sono credibili. Ultima domanda, visto che il libro l'hanno letto negli Stati Uniti e in Francia, l'ha letto il Presidente Obama, il direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde, Papa Francesco, Marine Le Pen. Beh, gli abbiamo chiesto se pensa che l'abbia letto anche Angela Merkel. I'm not sure that Marine Le Pen read it, and I don't know if she reads book or not. But I don't know about Angela Merkel. You know, it will come out in German this week. I think. Non sono sicuro che Marine Le Pen l'abbia letto. Non so se Angela Merkel l'ha letto. Il libro esce in questi giorni in Germania. Sta uscendo in Europa e sono contento che sia uscito in Italia, così che si possa creare un dibattito su questi temi anche nel suo paese. Aspetto con ansia di poter discutere dei contenuti del libro nei paesi europei, in particolare in Germania e Spagna. In Italia è appena uscito e credo sia il primo paese europeo, dopo Francia e Gran Bretagna, a pubblicare il libro. Europe outside Britain and France to publish the book. Così Thomas Piketty, volete sapere il nome del libro? Di nuovo, Il Capitale nel XXI secolo, casa editrice Bompiani. Comunque la pensiate, vedo che alcuni gli danno del radical chic, del gauche caviar, del fighetta, altri sono d'accordo con lui. Comunque la pensiate, dicevo, da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana e un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Focus Economia torna lunedì. Radio 24. Oddio. La passione si sente.